Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'Avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Player One, get ready! Runtime Radio presenta... Archeologia videoludica. E per testimoniare che questa trasmissione in realtà esiste, viva e pulsa e vince insieme a noi, siamo tornati con un nuovo episodio di Archeologia Videoludica 2.0, ideata da me e Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti. Questa riedizione di un programma che insomma ha fatto storia. Sì, sì. Benvenuti in questa nuova live, ormai mi costringono a fare le live dappertutto e io sono rimbalzo di una da live a live in questo momento. Ok, ok, con dispiacere anche, no? Quindi... Esatto. Salutiamo intanto in chat i nostri amici Elio, Elio Di Frisa detto Cavallo, Lobby Frontali, Roberto Domaiuolo e Davide Gatti. No, Davide Gatti è qui con noi. Ciao Davide. Ciao, ciao, buona serata a tutti. Stasera sono qui principalmente come ascoltatore perché sono curioso di sentire i segreti che ci racconterà Carlo. Di sicuro conoscerà qualcosa che io non ho mai sentito, sono certo. Guarda, di questo ne sono abbastanza gioco convinto che ha fatto anch'io. La storia del videogame. Addirittura io una cosa ho imparato durante questi anni con Carlo, che io mi ricordo delle cose e anche quello che mi ricordo è sbagliato. Sì, sì, è vero, è vero. E in realtà poi alla fine tu lì per lì dici, oh, ma che stai, ma che stai. In realtà poi alla fine comunque in qualche maniera non è neanche tanto non corretta sta cosa, perché cioè noi magari ci ricordiamo delle cose filtrate anche dal ricordo stesso, dall'emozione, dalle cose, robe del genere, magari ce le ricordiamo veramente in maniera imprecisa, non succede, cioè non è che... Insomma, a me è successo tante volte, devo dire la verità, insomma, perché magari ci avevo... Ma guarda, è normale... È normale col tempo confondere, questa è una cosa normalissima, nel senso con il passare del tempo è normale confondere gli anni o i momenti in cui sono avvenuti dei determinati avvenimenti. Il problema è che nella storia dell'informatica e del videogioco gli avvenimenti negli anni 80 sono stati talmente tanti e talmente attaccati che certo. Tu basta che confondi neanche un anno con l'altro, un mese con un altro dello stesso anno, che ti cambia completamente la prospettiva di alcuni avvenimenti, perché veramente stiamo parlando di una storia che è esplosa nel giro di 10 anni, da niente all'universo intero del mondo del videogioco. E quindi con il fatto che comunque è facile confondere un anno con l'altro in un ricordo, cioè quante volte pensiamo, aspetta, quando è che è morto quel personaggio? Sarà 2 anni fa, 3 anni fa, poi vai a leggere, è morto 10 anni fa o è morto l'anno scorso, cioè non te lo ricordi, capito? Sì, sì. Per fare un esempio semplice. Vabbè, a noi quindi, questo ci capita spesso, per esempio quando diciamo, ma il tizio ma non è morto, io da mo che morto, ma invece era vivo, per esempio, perché poi capita anche esatto. Questo è vero, esatto. E questo purtroppo è il motivo maggiore della ricerca nell'ambito della storia dell'informatica e del videogioco in particolare, ancora peggio dell'informatica se vuoi, è proprio questo, collocare gli avvenimenti lungo la linea temporale, perché ti cambia tantissime cose. Vedremo anche stasera, ne farò un esempio anche con Pitfall. Sì, sì, ma anche con noi faremo esempi con noi stessi, perché allora prima di iniziare facciamo un piccolo recap. Ricordo a tutti quanti che oltre alla pagina Facebook di Runtime esiste anche il nuovo canale Telegram di Runtime. Il canale non è una chat, cioè nel senso è passiva, ricevete tutte le informazioni relative ai feed, alle nuove dirette, a tutto quello che succede nell'arco della giornata in Runtime. Noi lo utilizziamo cercando di massimizzare, di accorpare le informazioni per non rompere le scatole alla gente, ma eventualmente lo mettete silenziato, ogni tanto andate a vedere e troverete insomma tutto quello che è successo nell'arco della giornata. Detto questo, c'è anche il gruppo Telegram Programmi Videoludici di Runtime, che potete tranquillamente entrare. Questa invece è una chat proprio, quindi cioè, noi raccontiamo, parliamo da Dark Souls fino a Pong, si parla indistintamente senza nessun problema e si scambiano informazioni ed è piacevole. E a tal proposito c'è comunque anche Run Playtime, che è invece il gruppo Facebook sempre di Videoludica e di Runtime. Tu dici perché non fai un lavoro un po' più omogeneo con i titoli? Avete ragione, ma quando queste cose sono state costruite in tempi diversi con idee diverse. Poi vi ricordo anche che per quanto riguarda, dato che c'è Davide Gatti, abbiamo fatto la settimana massiva di spot, di trailer del canale YouTube di Survival Hacking, che non è più soltanto un podcast ma è anche un canale YouTube che manco è nato, già superato i 100 iscritti, quindi Davide, grosse soddisfazioni. Sì, grosse soddisfazioni. Poi questi giorni c'è stato un boost grazie a una manovra segreta, e devo dire che c'è stato un incremento notevole, per cui approfitto ancora di questo slot che mi viene concesso per dire di andare a fare un giro su www.survivalhacking.it per andare a vedere un po' cosa riuscite a trovare e che novità vi propongo. Esatto. Con la mia bella faccia. Esatto. E invece, dato che molti sul canale YouTube sempre di archeologia informatica ci hanno chiesto ma quando è, che è successo, tutto bene? Sì, tutto bene. E infatti abbiamo comunicato nella tag community, insomma, che lunedì ritorniamo già con un primo video e da lì in poi, insomma, cercheremo di riprendere una certa regolarità fino a che avremo materiale, perché sapete, insomma, che il periodo è quello che è. Come spiegherà Carlo nel video di lunedì, abbiamo privilegiato, diciamo, questo grande lavoro di live che abbiamo fatto con Runtime in favore del fatto di stare tutti insieme e farci compagnia, ed è per questo perché hanno in maniera anomala sia archeologia videoludica che archeologia informatica nei podcast, in queste due occasioni sono usciti live. Infatti abbiamo fatto una puntata, quando era l'altra settimana, sui virus informatici, quindi andatevelo a cercare sul feed di archeologia informatica se non ve ne siete accorti, e da domani troverete anche questa puntata di archeologia videoludica. Bene, ho fatto tutto questo super preambolo perché insomma almeno abbiamo un attimo fatto il recap, insomma, di tutto quello che è successo, perché di roba ne sta succedendo una cifra, facciamo dentro una marea di live al giorno e mi sto un po' mi si sta sgretolando la connessione neurale, quindi insomma faccio un po' fatica, ho bisogno un attimo di riprendermi. E questa sera invece di che parliamo in realtà indirettamente, riprendiamo un po' il filo con la precedente puntata di archeologia videoludica, che era su Little Computer People, come vi ricorderete, e rimaniamo, insomma, almeno dal punto di vista dell'autore, rimaniamo sullo stesso cavallo, diciamo così, perché questa sera si parla di Pitfall, che è un gioco che io ho amato tantissimo nella mia infanzia, anche se poi, e vedi questo è il discorso che faceva Carlo prima e poi gli lascio la parola, in realtà io ho amato di più il secondo, anzi forse penso di aver giocato prevalentemente il secondo, e però uno lo confonde perché pensa a Pitfall, invece no, Pitfall era Pitfall 1 e Pitfall 2, giusto Carlo? Giustissimo, però io avrei una proposta da farvi. Allora, innanzitutto chiariamo, questa sera parleremo di Pitfall 1 nel caso specifico e non del 2, perché il 2 poi introduce tutta un'altra serie di, cioè finirebbe una puntata di 7 ore se parliamo di tutte e due, quindi cerchiamo di tenerla limitata. Detto questo, però, avrei una proposta di questo tipo: siccome io racconterò la storia e tutto quello che c'è anche dietro la storia, e non vorrei rovinare le vostre memorie con la storia che racconto io, quindi proporrei magari di sentire prima Davide e poi te su quello che è stato per voi il primo, cioè cosa vi ricordate voi del primo Pitfall, come emozione, come l'avete giocato, come l'avete visto, e poi io racconterò tutto quello che c'era dietro. Va bene, sì, ci sto, questa è un'ottima proposta. Diciamo che, allora, avvisiamo subito gli ascoltatori, questa è una puntata spoiler free, quindi non vi offendete se vi raccontiamo come va a finire scritto. Vabbè, a parte la cazzata, vai, parti Davide che... Vabbè, parto dicendo che lui muore alla fine. Esatto, come insieme alla bambina. Non mi ricordo, adesso faccio subito la prima figura di legno, è un personaggio che non muore mai, giusto? Finisce, allora, il tempo e basta. No, muore anche in realtà. Tanto muore anche, sì, sì, scorpione, sì, sì, no, se cade che c'è poi il personaggio che viene splittato. Io no, muore. Dicevo, vedi, non si vede, no, no, Non è truculento, ma muore. No, non è truculento. Sì. No. Vabbè, non c'erano neanche i pixel per farlo truculento. Dai, sì, ho letto qualche specifica, sono rimasto veramente basito da quello che si faceva in quei tempi in una manciata di bit. Comunque, beh, parlando di ricordi di questo gioco, io adesso non vorrei, qui verrò bacchettato subito da Carlo, ma se non ricordo male, io la prima volta lo vidi alla fiera, credo, al Sim Hi-Fi, possibile di averlo visto lì insieme a Demon Attack e compagnia della Imagic, dove l'ho visto un po' dopo la sua uscita, ma è normale perché in Italia noi a quell'epoca vedevamo le cose un po' dopo che uscivano. Eh sì. Comunque mi ricordo che quella fiera, quando dopo aver visto, sempre qua non voglio essere bacchettato, ma se consideriamo Pitfall e i giochi che sono usciti dopo, tipo quelli lì della Imagic, tutto quello che era uscito prima per 2006 era praticamente quasi pixel che si muove, proprio fuffaglia quasi, cioè erano giochi di una categoria diversa. Io quando ho visto per la prima volta Pitfall ho detto: cos'è sto gioco? Cioè, com'è possibile che dal mio Atari 2006 possa venire fuori un gioco del genere? E praticamente lo avrò comprato tipo il giorno dopo, o quanto prima possibile fosse stato possibile acquistarlo. Non era così uno a uno, cioè tu lo vedevi in fiera, il giorno dopo lo compravi nel negozio, dovevi un attimino trafficare per trovarlo. E mi ricordo che l'ho preso e ho cominciato a giocare, credo di non essermi più staccato finché non sono riuscito a finirlo, e credo che sia stato uno dei pochi platform che ho consumato finché non sono riuscito a finirlo. Credo che sia la cartuccia per 2006 che devo aver consumato di più in assoluto, dopo Asteroid. Io ho questi due giochi nel mio cuore sul 2006. Nel tuo cuore. Questo l'ho proprio consumata, cioè proprio devo averci perso veramente centinaia di ore per arrivare alla fine, e guardando adesso un video di tutto il gioco completo in 10 minuti o finisci in 10 minuti. Però io mi ero organizzato con degli amici che si disegnava: adesso vai a destra, adesso vai a sinistra, adesso ci sono i coccodrilli, la liana, occhio al buco. Eravamo in due, ci siamo fatti. Infatti, erano giochi assolutamente multiplayer, secondo me, indirettamente, nel senso che tu giocavi con gli amici tuoi, no? Cioè, nel senso, si faceva una volta per uno, oppure si dava l'indicazione, ci si memorizzava le cose, qui la rana salta così. Sì, ma con delle lettere, poi non so, tipo L liana, C coccodrilli, e ogni volta che si cambiava quadro, liana, coccodrillo, liana, buco, vai, corri, fantastico, barili, cioè tutte le diciture, finché pian piano si scopriva sempre un quadro in più, un quadro in più, un quadro in più, poi si moriva e si ricominciava. Insomma, alla fine ci eravamo fatti tutto tracciato, e quando avevamo finito, cioè proprio tipo mondiali dell'82, finito, incredibile. Però poi dopo siamo andati avanti, l'abbiamo rifatto, poi dopo la storia. Ma quindi è stato, dell'epoca è stato sicuramente il tuo gioco preferito di quel momento in assoluto. Direi proprio di sì. Ma poi hai approfondito dopo negli anni chi era Crane per quel gioco o qualcosa del genere, oppure dopo te lo sei dimenticato e sei andato avanti? No, dopo sono andato avanti perché come ricordi io faccio parte di quella categoria di accumulatori seriali di videogiochi che poi non li ha più giocati ma li ha accumulati e alla fine... A livello informativo, so che recentemente, ne abbiamo parlato in una chat, tu sei andato a cercare il codice sorgente di l'hai trovato. Ragazzi, si trova il codice sorgente, che se lo guardi si capiscicchia anche, è in Assembler 6502. La cosa che fa impressione è che ci metti 2 minuti a guardare il codice, non ci metti 6 mesi, cioè tu scrolli, sono poche pagine e tu dici: tutto sto gioco in queste pagine, cioè non ci credi, 50 byte, scusa, lo ripeto più volte, per definire tutti i livelli grafici. Qui poi dopo entrerà poi Carlo, no? Però dico onestamente, da quello che cioè la mia percezione della grandezza di Pitfall è il fatto che io per anni ho confuso il primo col secondo, per esempio, perché il primo è già più lineare, no, di gioco, cioè nel senso, sì, Sì, non è che ci sono tutti questi gran livelli, mentre che Pitfall 2, ragazzi, cioè vai giù, torni su. Lo so, ma guarda, che per chi non ha mai visto livelli, chi non ha mai visto livelli, sono tanti livelli. Io prima di quello c'era lo schermo fisso, il livello era uno. Quando tu infatti hai detto una cosa, scusa se ti interrompo, hai detto una cosa interessante prima. È stato uno dei platform che ho giocato di più. In realtà è stato uno dei primi platform, perché non è che ce n'erano molti prima, sì, di esatto, Pitfall. Direi proprio. Quindi, era anche l'innovazione del gioco stesso, sì, ma viene quasi considerato un po' come il padre, no, dei platform moderni, tutto sommato, cioè, sì, non moderni, poi lo dirò in maniera specifica, ma sicuramente è uno che introduce per la prima volta una serie di temi tutti insieme particolari, poi dopo vediamo nel dettaglio da dove arriva e qual è la sua ispirazione, diciamo. Comunque, ma tu un quadro con il coccodrillo, un quadro con la buca, un quadro con un albero, con tre alberi, con i barili, con un barile, con tre barili, con lo scorpione, ogni volta sembrava un quadro diverso, anche se cambiavano tre cose, cioè magari non te ne rendevi conto, però c'era uno schema con dei cambiamenti, la liana, cioè c'era sempre una somma di tanti pezzettini che facevano quadri che sembravano molto diversi, ma di fatto poi con gli occhi di oggi ovviamente perché ogni schermata c'aveva la sua varietà diversa, no? Senso, comunque, all'epoca era vissuta come sono schermate diverse, sono cose diverse, c'è un mondo, ma poi lo era, poi tutto sommato, no? Cioè, nel senso, in realtà poi lo schema era lo stesso, cioè, nel senso, se tu andavi a vedere probabilmente il risparmio stava in quello, no, magari. Però poi ecco, nella scena successiva c'erano i barili che rotolavano, no, i barili che erano tronchi, mi pare, ma sì, tronchi, forse, sì, c'erano i coccodrilli che aprivano la bocca con la pozzanghera, la pozzanghera che si allargava e si chiudeva, gli scorpioni, i serpenti, sì, però diciamo che nell'immaginario di chi ci giocava a quell'epoca, io in particolare posso ricordarmi che mi sembrava proprio che ci fosse un mondo dietro che stavamo esplorando, fatto da tanti pezzi che si componevano man mano e via, quindi proprio innovazione totale, insomma innovazione e schemi mentali che non erano presenti nel nostro cervello e che ci facevano sembrare questo veramente quasi fantascientifico, nonostante la sua semplicità, voglio dire, però è stato geniale e ci ho giocato più di quasi qualsiasi altro gioco negli anni successivi, voglio dire, non so come dirlo, però ci ho giocato veramente tantissimo. Sì, guarda, io posso fare solo un paragone molto più moderno, andandolo a riagganciare a un gioco che sicuramente è milioni di volte di più, perché chiaramente stiamo parlando proprio della generazione dei 20 anni dopo, suppongo, non mi ricordo, ma adesso non faccio conti, insomma 15 anni dopo, roba del genere, cioè per esempio con Another World, no, mi ha dato la stessa sensazione, un gioco che tu hai giocato, ci hai messo mesi, no, cioè, settimane per finirlo, no, perché ci hai messo un tempo incalcolabile, c'è un gioco che, ma quando finisce sto gioco? Poi vai a vedere, insomma, il gioco in sé, no, nel senso, è concentrato in 45 minuti del gioco. La stessa cosa è Pitfall. Io Pitfall, la percezione della sua piccolezza, tra virgolette, non c'ho mai, per me era un giocone, cioè proprio era il giocone Pitfall. Tra l'altro poi colorato, cioè la cosa bella è che era comunque una roba colorata, con lo sprite, assolutamente sì, la faccia, la maglietta verde, no? Cioè, prima di Pitfall la maggior parte dei giochi per Atari, tranne uno che è stato Superman nel 1979, gli sprite del gioco erano prevalentemente monocolore. Certo. Mentre Pitfall aveva lo sprite multicolore, cioè la maglietta, esatto, il pantalone, la testa, insomma era qualcosa che graficamente si faceva notare. Ma io proprio per me, mascella per terra, cioè il fotorealismo della Unreal Engine 5. Assolutamente sì. Simone, ma tu a parte questo, cioè, te lo ricordi proprio per l'impressione che ti ha fatto dal punto di vista tecnico, quindi anche tu, decisamente. Allora io non, cioè, allora io ero molto più piccolo di Davide, tu quanti anni c'hai, scusa? Io sono del 65. Vabbè, la Madonna, allora sì, io sono del 72, quindi cioè io, nel senso, per me ero un ragazzino di fronte al gioco che fluido, che si muoveva con tante variazioni, con tante cose, tutto colorato, tanti colori a schermo, a me era il paradiso, cioè nel senso era ipnotico, proprio ero folgorato da sto gioco, molto di più da tantissimi altri giochi che magari potevano essere anche più divertenti, no? Perché poi Pitfall era difficile, dovevi dovevi essere sincronizzato in certi punti, però era molto più compassato da tanti altri giochi, no? Nel senso, non era il gioco. Ma c'aveva anche una cosa fondamentale che dico subito di Pitfall. Pitfall è stato uno dei primi giochi pensati per una console domestica che non arrivava da una conversione arcade. Quindi questo cosa significa? Che la maggior parte dei giochi di quel periodo erano conversioni arcade, e gli arcade avevano una cosa fondamentale, che dovevano incassare gettoni. Quindi l'arcade, la partita durava poco per definizione, cioè tu dovevi morire dopo un po' perché dovevi mettere l'altro gettone, ok? Mentre Pitfall, non essendo pensato per la sala giochi ma per casa, aveva una durata, cioè era più un gioco di quelli come le produzioni moderne che dicono ti do un gioco che così ci giochi 3 mesi, no? Hai capito? Cioè era qualcosa che ti doveva dare un gioco che tu potevi giocare senza la paura di dover finire la partita, che anche se c'era il tempo ti dava l'opportunità di sviluppare un'esplorazione, che era appunto quella di disegnare i livelli, quella che hai fatto tu, che poi dopo questa idea è stata espansa in maniera molto migliore con Pitfall 2, ovviamente, con tutto il discorso della mappa anche verticale. No, che poi l'esplorazione era proprio parte integrante dell'esperienza, perché se non esploravi non riuscivi a capire neanche come affrontare un certo momento e se dovevi andare lì piuttosto che là, perché c'è pure il 2 soprattutto, c'è anche questa cosa, però il 2 ancora di più. Sì. Pitfall poi è andato a finire al bar comunque dopo. Sì, hanno fatto la versione da bar, quindi vuol dire che lì hanno trovato un sistema per lì hanno trovato un sistema per farlo durare poco, però. Allora, aspettate che me lo... Sì, del 2, abbiamo capito del 2, l'hai detto 5 volte. No, perché non mi sentite. No, perché l'1 non è finito. No, l'1 no, è chiaro. Il 2 però era molto diverso, era diventato un altro gioco. Ma per me già la versione per il 64 era un gioco diverso, quindi... Io sono un integralista, sì. Cioè proprio... E no, io diciamo Pitfall 2 l'ho giocato su 64 anch'io, se devo dire la verità. No, mi spiace. No, so che c'erano poi delle versioni anche per le console, quelle giapponesi, che cambiava la grafica. È stato convertito per tutto di più. Pitfall è stato un gioco per talmente tanto successo, poi è stata la base del successo di Activision. Cioè iniziamo, ecco, iniziamo a raccontare un po' la storia, cioè rintroduciamo l'argomento. Come hai detto tu giustamente, Simone, stiamo parlando di una prosecuzione di quello che abbiamo già accennato con l'IT Computer People l'altra volta, no? Quindi sia del programmatore, che è David Crane, sia della software house, che è l'Activision. Quindi per riprendere un po' le fila, o per anche raccontarlo brevemente per chi non avesse ascoltato la puntata precedente, che andrà sicuramente a riascoltarsi, l'Activision è considerata la prima software house della storia videogiochi che produce videogiochi domestici senza produrre la console, che a noi oggi ci sembra una stupidata, ma stiamo parlando del 1979. Quindi voi dovete sempre considerare che in quegli anni bisogna tornare in un momento in cui il mercato del videogioco era appena nato, e quindi tante cose che noi per adesso ci sembrano normali e scontate, a quell'epoca non lo erano assolutamente, perché andavano ancora inventate. E una delle cose che andava inventata era la figura del game designer, perché per noi adesso è normale celebrare l'ideatore di un videogioco come la persona che ha inventato il videogioco, e non dico al pari delle rockstar o delle però in alcuni casi quasi anche, pensiamo a Kojima o altri, insomma, o di un autore di bestseller. Però all'epoca erano i giochi che uscivano e tu non sapevi neanche chi l'avesse ideato o chi l'avesse programmato. C'era il gioco ed era della marca era dell'Atari, era della Taito, era della Namco, ok? Anzi, prima erano solo da Atari, poi dopo anche delle altre. Sì, infatti, fino a che qualcuno non si era inventato qualche trucchetto, qualche glitch all'interno del gioco, che poi comunque lo devi conoscere. Infatti, all'inizio era l'unico modo per far dire che il gioco l'ho fatto io, certo. Era mettere quel easter egg esatto all'interno del gioco, no? Ricordare il mod Venture dell'Atari che fa uscire il nome dell'autore. Questo cosa succede? Stiamo parlando della più grande azienda di produzione e più importante azienda di produzione di videogiochi degli anni 70, del primo periodo della storia del videogioco, cioè l'Atari. All'interno dell'Atari c'erano tanti programmatori che lavoravano e David Crane era uno di questi, era uno dei programmatori che lavorava all'interno dell'Atari, che creava i giochi per l'Atari. In quel momento l'Atari era posseduta dalla Warner Bros. E aveva un CEO, un direttore che era Ray Kassar, che era stato messo lì, che è entrato alla storia come quello che ha fatto affossare l'Atari, e lui arrivava dal mercato dell'elettrodomestico e trattava l'Atari come una produttrice di un altro tipo di elettrodomestico che era il videogioco, senza capire esattamente cosa fossero i videogiochi. Non possiamo fargliene una colpa adesso col senno del poi, perché stiamo parlando veramente di un periodo che nessuno sapeva bene esattamente cosa fossero i videogiochi e come funzionasse il mercato, visto che ci stava che non ne capisse. Però qual è stata la sua colpa? Una delle sue colpe è stata quella di non riconoscere ai programmatori e agli ideatori l'effettiva importanza che essi invece avevano, e loro stessi, che invece chi faceva i videogiochi se ne rendeva conto tra di loro, che c'era chi era più bravo, chi era meno bravo, chi faceva giochi belli, chi faceva giochi brutti, chi faceva giochi che vendevano, chi faceva giochi invece che non vendevano, no? Erano loro stessi a rendersene conto. È un gruppo di quattro programmatori, la banda dei quattro all'interno dell'Atari, che era formata da David Crane, appunto, con Larry Kaplan, Alan Miller e Bob Whitehead, decisero a un certo punto di andare dal direttore e dire: oh, noi facciamo dei videogiochi molto belli, che vendono più degli altri, che piacciono più degli altri, dovete iniziare a riconoscerci qualcosa anche a noi. Non solo, dico, dal punto di vista almeno del mettere il nome dell'autore sulla cartuccia del gioco, ma anche dal punto di vista economico: se io faccio un gioco che vende 10 milioni di copie, potrei avere anche diritto a qualche royalties su questo gioco, ok? Certo, perché loro non erano autori, ma erano impiegati fondamentalmente. Esatto. Arriva, quindi vanno, dicono questo a Ray Kassar, la risposta di Ray Kassar rimane la storia, e dice: ma che cacchio volete da me? Tutti possono fare un videogioco, voi siete dei towel designer, che tradotto in italiano significa degli stilisti di salviette da bagno o da cucina, insomma. Quindi, in pratica, la lungimiranza, fate una cosa che sono capace, che trovo a frotte di gente che me la fa, e quindi chi se ne frega. Va bene, allora loro dicono: va bene ragazzi, cosa facciamo? Usciamo e facciamo noi i videogiochi, iniziamo a farceli da soli, facciamo una società. E hanno appunto questa grande idea di dire: non abbiamo tanti soldi, quindi non è che possiamo uscire e farci la nostra console, ma usciamo e facciamo i videogiochi per le console che sono sul mercato adesso, quindi per l'Atari, per l'Intellivision che era appena uscito, e poi in seguito per tutte le altre console e un computer che sono usciti in quel momento. E questa è lungimiranza, invece. Questa è lungimiranza, infatti, e così nasce l'Activision. L'Activision esiste ancora oggi, come tutti sapete, tra alterni successi, ma è una delle aziende di produzione di videogiochi più con più storia esistenti al mondo. E fondano l'Activision. Questi quattro erano tutti e quattro programmatori, però dei quattro effettivamente quella più dotata era Crane, perché all'inizio comunque hanno subito successo, perché iniziano a uscire con una serie di videogiochi molto belli, fatti molto bene, anche se i primi non è che si distinguessero in maniera così assurda dal punto di vista qualitativo, ma sicuramente davano una serie di plus notevoli. Non so se vi ricordate i primi giochi di Activision. Chi è che se li ricorda i primi giochi di Activision? Kabun, piuttosto. Io parecchi dei giochi avevo. Kabun è di Larry Kaplan, per esempio. Ma Little Computer People è uscito su 2006 o no? No, la Madonna. Vabbè che si faceva miracoli, ma insomma, no, stiamo parlando di anni dopo. Mi era passato già anche Ghostbusters, figurati. No. All'inizio erano giochi tipo Kaboom, appunto, che si giocava con il paddle, ma Freeway di Crane, che era una copia, sì, di Frogger, però con le galline. C'era la boxing, lo sci, c'erano i giochi sportivi. Io ce n'avevo diversi, perché mi ricordo la scritta sotto che rotava, quello mi ricorderò sempre sta cosa. Esatto. La scritta qui. Loro escono con queste cartucce di videogioco che portano sul retro della cartuccia la foto dell'autore e la descrizione del gioco e la fotina, quindi iniziavano a dire questo è un gioco di, perché loro avevano intuito in Activision che se io dico questo è un gioco di e questo gioco mi piace, il prossimo gioco di io lo compro, chiaramente, perché mi affeziono a quello che è l'autore e alla sua, è il suo modo di fare giochi, che è stata un'intuizione vincente, ok? Il grande boom dell'Activision ce l'abbiamo quando David Crane, appunto, pubblica Pitfall, e ci troviamo nel 1982. Allora, arriviamo quindi all'eroe di questa situazione, cioè quindi Pitfall. Allora, David Crane, dovete sapere che era tecnicamente il più bravo dei quattro ed era sicuramente all'epoca uno dei più bravi programmatori sulla piattaforma Atari 2006. L'Atari VCS 2006 in quegli anni era la console più venduta del mondo, quindi amico, ce l'avevano tutti, ma sicuramente chi è tutti che non c'aveva l'Atari, voglio dire, cioè. Sì. Chi non aveva l'Atari aveva l'Intellivision, okay. Io li avevo tutte e due, li avevo. Grossa rosicata la console. Vabbè, scusa, vai. E David Crane era tecnicamente bravissimo. Tecnicamente bravissimo, cosa vuol dire? Che riusciva a tirar fuori dal 2006 i miracoli. Tutti noi ci ricordiamo la liana che va avanti e indietro. Ma scherzi, scherzi. Quella liana era fatta, se ve lo dico, è stata fatta utilizzando. Sapete che l'Atari aveva alla fine aveva due sprite, cioè il Missile Object e il Player Object. Siccome li aveva già usati tutti e due, con quella ha usato il Ball Object, che era un altro oggetto che aveva, che era possibile utilizzare sul 2006, che era la pallina del Pong, ok? Ma che poteva essere solo quadrato. E quindi lui cosa ha fatto? Ha utilizzato il Ball Object, cioè del 2006, che era il quadrato più piccolo, ripetuto ogni scanline in modo da creare la liana che si muoveva avanti e indietro. Sì, l'avevo letto, non l'avevo capito, adesso l'ho capito. È formata da tante palline del Pong, messa una sotto l'altra e movimentata. Perché cioè, l'Atari aveva questo oggetto, ma poteva essere utilizzato in quantità. Cioè, no, non era in quantità, perché si muoveva e viaggiava in parallelo allo scanline, mentre il pennello elettronico disegnava sullo schermo la riga. Lui spostava la pallina lì, poi disegnava, esatto, la riga successiva e lui spostava prima che venisse disegnata la pallina. L'effetto della persistenza era che quella pallina praticamente diventava una liana, ma era un solo, esatto, oggetto che si spostava alla velocità del pennello elettronico, in pratica, cioè 50 volte al secondo sul pale e 60 volte al secondo sul pale. Mostruosa, esatto, sta cosa, oh. Sì, perché era, assolutamente, era proprio miracoli davvero. Che poi, cioè, non è che era una cosa dritta, cioè lui dà anche il movimento, è tutto fatto tramite calcoli matematici, ovviamente, esatto, perché aveva pochissima memoria. Esatto, quindi probabilmente 10 byte l'avrà fatto. Esattamente. Sto miracolo. Quindi tramite tutti i calcoli matematici, tabelle del seno e coseno, cose di questo genere. Insomma, veramente un programmatore coi controcosi, come si dice adesso. Gabbazzizi, coi controgabbazzizi. Lui tira fuori dei capolavori dal punto di vista tecnico e a quell'epoca l'Atari, essendo la console più venduta al mondo, esce fuori con questo videogioco, spacca tutto, sia tu che Davide, sia Simone che Davide prima hanno raccontato che la loro percezione di Pitfall dell'epoca fu appunto ma che grafica della Madonna, era, esatto, vero, cioè a quell'epoca spaccava. Oltre a questo, perché Pitfall ha questo grandissimo successo? Perché posso interrompere un secondo? Ricorda questa frenati, ricordati Roberto sì. dice mitico River Raid su Intellivision, ma io River Raid ce l'avevo pure su, cioè, i giochi della Parker. Bravissimo. Guarda, River Raid è stato un altro dei grandissimi successi dell'Activision, con una programmatrice donna, oltretutto. Ah, era dell'Activision, quindi non era della, certo, Parker. Certo, cioè, no, era, sempre se... era sempre dell'82. Ecco perché, ah, ecco, bravo, cioè, perché ce l'ha scritta sotto che rodava, c'è ragione. River Raid, Activision, programmatrice. Ah, io River Raid ce l'avevo, ci ho giocato l'ira del Dio pure a quel gioco. Non mi sovviene il nome, ma era una donna che Carol Show. Carol Show, assunta proprio da loro, presa anche lei da Atari, hanno riconosciuto ovviamente la bravura tecnica, e anche quella è un capolavoro dal punto di vista grafico. Infatti fu successo, io mi ricordo benissimo, la copertina di videogiochi della Jackson, credo il numero 3 o il numero 4, che aveva in copertina River Raid. Ci credo che su Intellivision era mitico, cioè Intellivision era comunque, cioè, nel senso, io che quando atarista, pur continuando a sostenere che secondo me l'Atari, cioè, aveva tutto un suo fascino, comunque quando vedevo gli amici miei che avevano Intellivision rosicavo, cioè, nel senso. Vabbè, certo, ma anche se devi considerare una cosa, però Pitfall, e questo ci fu anche una critica che venne mossa negli Stati Uniti dall'Activision, da alcuni recensori di videogiochi, Pitfall non era molto, non era migliore nella versione della Activision. Questo perché? Perché David Crane era un programmatore dell'Atari, e la versione in television fu fatta da una conversione da un altro programmatore, e Pitfall era quasi un videogioco nato sull'Atari per sfruttare le sue caratteristiche proprio del VCS, quindi è qualcosa di molto legato a quello che è l'Atari VCS, cioè lo porta veramente ai suoi massimi. E la versione sull'Intellivision c'è una critica che fu mossa all'epoca su alcune riviste del settore negli Stati Uniti, dicevano appunto ma come mai non avete fatto Pitfall meglio, perché l'Intellivision fa i giochi più belli, però Pitfall è quasi più bella, identico, cioè praticamente identico. Esatto. Sì, ma camminava bruttissimo, era sì, diciamo fatto... che è meno fluido, però, cioè, sembra più scattoso. Ecco, però adesso tiriamo, dopo aver riempito di complimenti il buon adesso buon diamogli la mazzata, noi tiriamo una mazzata, ma diciamo anche qualcosa per cui che anche lui stesso spesso quando fa le interviste, anzi sempre, nega. David Crane era bravissimo tecnicamente, molto bravo anche a riconoscere le caratteristiche belle dei videogiochi, ma non era un grande ideatore di videogiochi, cioè le sue idee non erano molto originali, diciamolo così. Quindi era più tecnico che creativo, diciamo. Più tecnico che creativo. Pitfall, da questo punto di vista, c'è tantissima letteratura che lo considera un capolavoro anche dal punto di vista creativo, perché dice è il primo perché fa questo, è il primo che fa quello. Certo. In realtà non è proprio così. Infatti ci sarebbe da correggere tanta letteratura in questo senso. Okay. E ve lo dimostro anche in maniera abbastanza. Questa è diciamo una cosa che non trovate scritta quasi da nessuna parte, anzi forse da nessuna parte, però è abbastanza intuitivo. Allora, innanzitutto le prime critiche, il primo gioco che ha fatto David Crane quando è uscito da Activision era Freeway. Freeway è chiaramente un clone di Frogger, cioè David Crane la sua ispirazione la prendeva dagli arcade e li modificava. E vabbè, Freeway all'epoca succedevano queste cose, però, succedeva, è una gallina che attraversa la strada, ok. Quando a David Crane in un'intervista gli hanno chiesto ma si è ispirato a Frogger, e lui no, ma, io ho visto una gallina che attraversava la strada e allora ho deciso di... certo, ok. Questo anche su Pitfall è la stessa cosa. In realtà Pitfall nasce in un periodo molto particolare. Allora, nelle interviste, quando gli chiedono a lui come l'ha ideato, lui dice che nel 79 aveva disegnato, aveva scritto una routine di un omino che correva sull'Atari in maniera molto fluida, e quindi ci voleva costruire un gioco intorno all'omino che correva. E quindi da lì ha detto: ci metto gli alberi, ci metto le cose, ci metto le liane, e così poi è nato Pitfall, no? Da quella idea è nato Pitfall. Ma sicuramente sull'omino che correva ci sta l'idea, anche perché in quel periodo stavano disegnando anche quello che poi sarebbe diventato Decathlon della Activision, il gioco di corsa sportiva, anche quello fondamentale. In realtà Pitfall ha due ispiratori principali, ok? che possono essere facilmente riconoscibili. Pitfall esce alla fine del 1982. All'inizio del 1982 negli arcade esce un videogioco molto innovativo che però viene spesso dimenticato. Adesso quando ve lo dirò voi direte ah, me lo ricordo, che era Jungle King della Taito, che poi è uscito anche come Jungle Hunt. Jungle Hunt, io lo conoscevo come Jungle Hunt, sì. Quasi tutti lo conoscono come Jungle Hunt perché esce come Jungle King, che vuol dire il re della giungla. Esatto. Ma quelli che e il personaggio era Tarzan. Ma siccome i detentori del copyright di Tarzan si incazzano, gli dicono non puoi descrivere il re della giungla. Allora lo chiamano Hunt, il cacciatore della giungla, e cambiano anche lo sprite principale. Che da che Tarzan diventa un po' tipo Indiana Jones, praticamente. Diventa un po' tipo Indiana Jones. Sì. La seconda cosa è che in quel periodo, proprio nell'82, c'era Indiana Jones era il film più famoso del momento, della storia in assoluto. Era famosissimo come film Indiana Jones, aveva sbancato tutti i botteghini, aveva fatto disastri da tutte le parti, quindi Indiana Jones era un po' un mito. È Indiana Jones, non rompete i coglioni, insomma. Esatto. Abbiamo un ispiratore arcade, Jungle King o Jungle Land, ve lo ricordate come gioco? Sì, come no, io ci ho giocato tantissimo. Solo che pensavo fosse uscito dopo, invece è uscito prima. Invece no, è uscito ciao prima. Al 9000. È uscito all'inizio dell'82, mentre Pitfall è uscito alla fine dell'82. Perché okay. Qua c'erano le liane, c'era... C'è tutto quello che vediamo in Pitfall, quasi tutto. Allora, ci beh sono sì, le liane, diciamo che è un po' una sorta di estensione di Pitfall poi, anche se in realtà poi dopo ci sono situazioni diverse. In realtà è Pitfall che è una riduzione di Jungle okay. King. Ah, ecco, quindi questo è interessante. Jungle King esce prima, quindi lì ci sono le liane, ci sono i coccodrilli, c'è lui che salta le rocce, ok, e poi alla fine arriva a liberare la ragazza. Ti interrompo un attimo solo al volo veloce dicendoti che sto guardando il video di Decathlon per Atari 2006 dell'Activision, ovviamente, ed è Pitfall che corre fondamentalmente, esattamente, cioè, è quello che ti stavo dicendo, è proprio lui, cioè. È lui. Perfetto. No, invece sto guardando Jungle Hunt e effettivamente non ci avevo mai fatto caso, in effetti tra coccodrilli lo ricordo molto. No, però io me lo ricordo dopo, capito? Ecco perché qui ritorniamo al discorso. Molti okay. confondono questa cosa proprio perché pensano che sia. Perché? Perché su Atari VCS la cartuccia di Jungle Hunt uscì dopo, come conversione dell'arcade. Uscì dopo Pitfall. Ecco, Pitfall è precedente. Infatti. Solo che Pitfall è ispirato a Jungle Hunt, non è la sua conversione. Lo noti l'ispirazione anche dal movimento delle liane. Sì. Che c'ha in te. È identico. Quindi il buon David Crane anche questa volta prende, diciamo, in prestito l'ispirazione da un arcade. Prende in prestito l'ispirazione da uno dei primi platform, perché la storia dei platform nasce proprio in quegli anni, partendo da Donkey Kong, perché è il primo videogioco in assoluto dove si introduce il salto come elemento di gioco, perché la piattaforma è stata introdotta prima, ci sono dei giochi precedenti dove abbiamo le piattaforme, ma l'omino che salta, che è proprio una caratteristica fondamentale del platform, è, oltre ad esserci le piattaforme, la caratteristica è che l'omino deve saltare, se deve saltare un oggetto, saltare la piattaforma. Le scale e le piattaforme vengono introdotte prima di Donkey Kong. Donkey Kong prende le scale e le piattaforme e ci aggiunge il salto, ok? E lì otteniamo, diciamo, la forma. Dopodiché c'è l'aggiunta dello scroller. Lo scroller viene aggiunto da tanti videogiochi quasi contemporaneamente. Uno che sicuramente ci ricordiamo è Moon Patrol. Ve lo ricordate? Sì. Moon Patrol. Non arrivo a tanto io, però sì, grande. Ma anche tanti altri. Ci sono Kangaroo, Canyon Kimbler, Miner 2049, Load Runner, ne nascono tantissimi. Che poi sono multiquadro, multilivello. Multiquadro, anche. Alcuni introducono, come Jungle Hunt introduce lo scroller, anche se l'ha fatto al contrario, ok? Sì, infatti era da destra verso sinistra. Da destra verso sinistra, esatto. Pitfall non scrolla. Ho giocato pure a questo gioco. Esatto. Pitfall non scrolla, ma introduce il concetto di multiquadro. Ci sono le scale, le stanze. C'è l'omino che sa. Non scrolla solo perché nel 2006 non ce la faceva a scrollare, dai. Poverino. No, vabbè, ma pure Jungle Hunt era il 2006, Sì, c'era anche per il 2006. Sì. È una conversione successiva, però. Comunque. Però io lì l'ho Pitfall. Giocato. quale mette insieme i pezzi, insomma, Gary Crane faceva così, metteva insieme i pezzi, faceva, esce fuori con questa cosa, grafica spaziale, tecnica bellissima, gioco divertente, un sacco di elementi presi a destra e a sinistra, quindi l'omino che salta, che corre, la cosa eccetera, abbiamo qualcosa che diventa un successo mondiale, cioè esplode il successo di Pitfall, esplode il successo dell'Activision come casa di produzione di giochi indipendenti. Da quel momento nascono anche tutte le altre, la Imagic, e tutte le decine poi di la Parker Brothers, la 20th Century Fox si mette a fare videogiochi per Atari, tutti si mettono a fare videogiochi per le console, producendo, perché si rendono conto che è un mercato che sta iniziando a movimentare i miliardi di dollari. Ma l'Atari, quindi, non si era incazzata un po', o sì? No, perché gli faceva vendere le console, quindi lei comunque, diciamo, sopravviveva. Poi stiamo parlando veramente di un mercato che stava nascendo, quindi non se ne conosceva l'ABC in quel momento, tanto è vero il fatto che nell'84 poi c'è il crash, proprio per questo motivo, perché non se ne conoscevano le dinamiche, no? L'Atari continua a produrre il 2006 quando avrebbe dovuto smettere di farlo, no? Perché ormai c'erano console migliori, quindi tutto se fa giochi per il 2006, produce milioni di cartucce che poi non le vende, insomma il solito discorso che abbiamo già fatto e affrontato altre volte. C'erano degli ABC che non erano ancora chiari, insomma, di questo mercato del videogioco, che era appunto anche l'obsolescenza tecnologica, il rinnovo e tutte cose che poi sono capite in seguito. C'era anche la paura degli home computer, che era qualcosa che stava nascendo, che non si capiva bene cosa sarebbe successo se avrebbero sostituito le console. Cos'è che succede con questi cosi adesso? Esatto. Questi, la gente si fanno i giochi in casa, non compra più le cartucce. Qui si programma, ragazzi. Sì, c'era tutto ancora, cioè dobbiamo proiettarci in un mondo in cui tutto era ancora da inventare, nel buono e nel cattivo che questo significava, cioè poteva esserci qualcosa di delle opportunità, ma anche un sacco di rischi che infatti portarono a tantissimi fallimenti, ecco. Come tutti sappiamo, no? Che è successo in quegli anni. Comunque, ritornando al discorso, quindi Pitfall in realtà deriva da ispirazioni, non è così innovativo dal punto di vista delle singole idee, è innovativo nel metterle insieme e creare un prodotto eccezionale, quindi è un prodotto molto ben impacchettato, con idee che funzionavano, di giochi che funzionavano, e tira fuori quello che è questo capolavoro assoluto che è Pitfall, che andrà a essere poi il gioco più venduto tra l'82 e l'84 al mondo, e convertito in tutte le possibili versioni per tutte le possibili macchine, quindi dall'Atari all'Intellivision, al ColecoVision, al Commodore 64, eccetera eccetera eccetera eccetera, insomma. Parlano di 4 milioni di copie vendute, 4 milioni di copie, che per l'epoca era qualcosa di veramente. Voi non sapete che su YouTube ci sono quei canali YouTube dove prendono un classico, diciamo così, tipo Pitfall per Natale 2006, e fanno un video che dura di solito 5-10 minuti, forse anche 10 minuti, sì, dove praticamente fanno vedere tutti i porting, cioè partendo dall'originale, tutti i porting che sono stati fatti di quel gioco lì. Io continuo a dire che Pitfall, nonostante tutto, secondo me la migliore versione, è proprio la più bella, proprio, è quella per Atari 2006. Perché sì, secondo sì, me sì, sono d'accordo. Neanche sì. le versioni di Pitfall o Pitfall 2 per Commodore 64, che tra l'altro secondo me, a volte i porting su Commodore 64, cioè secondo me una cosa, il gioco nato su Commodore 64 è una cosa dei giochi che venivano portati su Commodore 64, però ecco, secondo me Pitfall rimane veramente il più bello, rimane quello di Atari 2006, e non è solo, sì, ok, è probabilmente un ragionamento mio personale, affettivo, quello che ti pare, però secondo me proprio anche oggi riguardandolo, comunque quello che è proprio più bello da guardare rapportato alla potenzialità pure della macchina, secondo me rimane quello. Questa sì, era veramente giocabile. C'erano veramente dei giochi esasperanti sul 2006 che ti muovevi un secondo e morivi. Eh sì, ma quella era l'epoca, però quello, cioè nel senso. Sì, sì, era, dicevo, quel discorso dell'arcade anche quello. Che sì, però erano veramente troppo, non dico sensibili, però voglio dire, non si riuscivano quasi a giocare, mentre invece questo si giocava. Sì, sì, si era più compassato. Dai, ci stava, tu mettivi là, riflettevi quando era il momento, capivi quando sincronizzare il movimento, cioè ci stava, non era un gioco particolarmente frenetico. Ed è per questo che secondo me, e qui ritorno ai due Pitfall, sono gli unici giochi che penso da aver finito dell'epoca, insomma. Esatto, perché, vabbè, poi alcuni non si finivano proprio, cioè andavano avanti fino a che non morivi praticamente. Vabbè, quali sono poi i figli di Pitfall? Perché Pitfall cosa fa? Con questo grandissimo successo, da anche là poi a tutta una serie di ispirazioni, perché tutti lo giocano, e non è che giocare un gioco così che piace, che viene così diffuso, non lascia niente nella storia, lascia tutta una serie di cioè, a parte Pitfall 2, che poi è il seguito ufficiale che fa Crane, che è proprio portare al massimo quella che era l'idea di Pitfall, e lo fa diventare veramente un capolavoro della tecnica dell'epoca ed anche del tipo di gioco. Ma negli anni successivi gli elementi che si ritrovano in Pitfall fanno da ispirazione a tantissimi giochi, ne ricordo due in particolare. Uno, molti non ci pensano, ma Pitfall è anche l'ispiratore di Prince of Persia. Sì, ci può stare. Sull'Apple 2 è stato dichiarato. Cioè, io mi ricordo Hunchback, invece, non so perché. Hunchback è il gobbo di Notre Dame, dice. Sì, okay. Sì, era un platform anche quello, l'omino che saltava, anche se lì fa parte Hunchback di tutta una, è inglese se non ricordo male, la software house di Hunchback, lì è più l'ispirazione è Manic Miner, che è un altro, che è un grande ispiratore di genere di questo tipo di platform, che nasce sempre in quel periodo lì, è un grandissimo successo, lo ricordiamo tutti, no? Manic Miner, ve lo ricordate? No? Sì. E invece come ispiratore Pitfall anche per il movimento dell'omino, il salto eccetera, un altro è Impossible Mission. Oh yes. Perché? Wow, perché wow, è molto sì. Fluido. Another sì. Visitors. Stay well. Stay forever. Esatto. Il movimento non ci ho giocato nessuno. Dell'omino della corsa è quello che ispira anche poi a fare il movimento fluido degli omini di sia di Prince of Persia che poi di Impossible Mission, cioè sì, il fatto di avere una corsa realistica. Infatti, diciamo, Prince of Persia lo collego più a Mission Impossible o Impossible Mission. Diciamo che sono tutte e due figli impropri di Pitfall alla fine, se vogliamo. Quindi derivano dalla stessa matrice, per questo poi si somigliano tra di loro anche. E poi come... i veri figli impropri di Pitfall sono i Pitfall che sono usciti dopo, cioè delle cose ignobili, insomma. Vabbè, certo, tantissimi clonacci dell'epoca. No, ma io mi ricordo fecero pure un Pitfall per la prima PSX, ricordo, non so se ti ricordi che era mezzo 3D, una zozzeria in vereconda, cioè. Però era forzato, era per sfruttare il nome. Esatto. Ti muovevi, ma non potevi, non avevi non potevi muoverti come volevi. Era un 3D, ma era forzato, e per quello non mi era piaciuto. Graficamente era carino, ma non era giocabile. Sì, però vabbè, non c'entrava niente. Cioè, nel senso, giù le mani. I marchi bisogna spremerli. Lo so. Questo è un po' in breve quello che sta dietro a Pitfall e quello che sta dietro alla sua realizzazione e la sua ideazione e la legacy che ha lasciato. Ecco, per questo lo consideriamo oggi uno dei videogiochi più importanti nella storia del videogioco, proprio per il successo che ebbe all'epoca e per quello che lasciò a livello di esperienza a tutti noi giocatori. Io sono in mezzo come età tra Davide e io avevo 17 anni, Simone. Ho conteggiato. Io ne avevo 12 e Simone ne aveva 10. Però sì, ci siamo divertiti tutti lo stesso, anche se il range di età era molto variabile. Assolutamente. Assolutamente, sì. Allora, in chat ci dicono che Pitfall 2, allora Roberto dice che Pitfall 2 spingeva il 2006 oltre i suoi limiti. Sì, perché dentro, perché aveva un chip aggiuntivo della cartuccia che lo potenziava. Mo ci arriviamo, magari facciamo pure qualche un attimo. Parliamo anche un secondo del 2, perché perché comunque vabbè, voglio dire anche io delle cose su quello. E mentre che invece Leo Vargon ne dice che dice che praticamente se aggiungessero la tecnologia RTX come hanno fatto con Minecraft a Pitfall, sai che vabbè, tutto a posto. Leo Vargon, sì sì, vabbè, dai, ci fa, sì, cioè, no, però ci ha fatto ridere, insomma. No, quello del, no, del C64 è bello. Allora, io non voglio, allora, ragazzi, non è una questione di, cioè, sicuramente tu prendi Jungle Hunt e Pitfall e lo porti sul Commodore 64, sicuramente erano tecnicamente più belle. Però secondo me la più bella, per me, per la mia esperienza, che ho messo la cartuccia, ho visto il personaggio colorato, le liane che si muovono, roba del genere, per me rimane quello dell'Atari 2006. Vero? Ed è anche vero per un altro motivo che avevo già detto nella scorsa puntata, ma lo ripeto, mentre Pitfall 1 e Pitfall 2 furono programmati da David Crane sul 2006, le versioni per il Commodore 64 non furono fatte da David Crane di Pitfall 1 e Pitfall 2, furono delle conversioni fatte da altri autori. Il sì, primo sì, videogioco che fece Crane su Commodore 64 fu Ghostbusters. Ghostbusters, sì. E infatti Ghostbusters fu un altro capolavoro. Di grande, brutto grande, anche lui. Esatto. Io ho una percezione strana di quel gioco, perché per me il gioco multievento, secondo me non era un gioco riuscitissimo. Però, cioè, tu lo caricavi solo perché era Ghostbusters, c'aveva la grafica da paura, c'aveva la musica da paura, cioè, era... Come tutti i giochi di David Crane, era la tecnica che faceva impressionare. Che il gioco di per sé, insomma, infatti, non ci ho mai avuto un buon ricordo, insomma. Io poi questo l'ho detto anche altre volte, quando noi facevamo, io faccio parte di quella generazione di recensori di videogiochi, anche se diciamo la generazione dopo quella dell'Atari, perché quella era di Albini Rossetti, io ero lettore, però io subito dopo, cioè quindi col Commodore 64 e con lo Spectrum, faccio parte di quella delle redazioni di videogiochi, quindi vado a lavorare a Zap e Vegas Machine, e c'era ancora questo limite che lo riconosco adesso dopo anni, cioè che la recensione del videogioco per noi era anche molto guidata dalla tecnica realizzativa, cioè per noi la giocabilità era in secondo piano quasi. La tecnica del videogioco, quindi la grafica, lo scrolling, era un parametro che aveva un'altissima valenza nel giudizio finale del videogioco. Beh, però ci sta, forse perché io ricordo che quella generazione lì era la cosa che ti colpiva di più, cioè nel senso, noi venivamo magari da chi veniva dai giochi dal bar bianco e nero con le strisce colorate, poi alla fine ti trovavi di fronte a quella cosa che era realistica, guarda realistico, guarda che grafica, guarda. E chiaramente questo ci ha influenzato un po' a tutti, quindi secondo me non era poi così strano che nelle valutazioni magari giornalistiche come facevate voi e comunque alla fine influenzasse molto, perché influenzava proprio tutti. Non era strano, è vero, perché influenzava tutti, però a rivederlo poi col senno del poi, certo, era qualcosa, certo, che comunque falsava il giudizio, certo, perché sì, esatto, ti portava a valutare tantissimo dei giochi che poi come gioco in se stesso erano un po' delle cagate, mentre magari svalutavi dei giochi che erano giocabili ma che invece non erano all'altezza, esatto, certo, perché magari tecnicamente non erano all'altezza. E quindi come dicevo, David Crane era un maestro della tecnica ed è questo che faceva risaltare soprattutto i suoi videogiochi. Prima di andare avanti volevo solo ricordare una cosa, mi sono dimenticato di citare una cosa che si dimentica spesso nella evoluzione dei giochi platform, no? Si inizia sempre con Mario e si finisce con Super Mario di solito, no, Super Mario è il non plus ultra l'icona estrema del platform gaming, sì, quello quindi si inizia con Donkey Kong, quindi con la prima apparizione di Mario nei videogiochi, e si finisce ad arrivare a Super Mario. Ma ci si dimentica cosa c'è in mezzo. Pitfall molte volte viene citato perché è uno di quelli che appunto sta nella metà strada, ma un altro che sta nella metà strada, che è sempre del 1982, nasce anche in quegli anni, è il gioco dei puffi. Chi se lo ricorda? Allora, io mi ricordo un gioco dei puffi su Intellivision, Smurf. Smurf. che ci aveva pure una bella grafica, però non ricordo che esistesse anche per Atari 2006, ad esempio. Doveva uscire, ma non è uscito per Atari. È uscito e fu un grandissimo successo sul ColecoVision, una delle cartucce più vendute del ColecoVision. Ah, io me lo ricordo. Il gioco di PC, che è uscito per il ColecoVision, introduceva i concetti che poi vengono sviluppati alla fine in Super Mario. Per la prima volta. Aspetta, che sto andando a vedere. Mentre sì, anch'io lo sto andando a vedere. Mentre parli di ColecoVision, mi fai venire in mente che mi devi dare quella cartuccia che devo restituire. Dobbiamo spiegare agli ascoltatori di cosa si tratta. Perché so che ti vergogni ormai, è passato così tanto tempo che ti vergogni a restituirla. Forse era ColecoVision allora, perché vedo che in effetti. Sì, ColecoVision. Quadro con la strada, con tutti gli ostacoli da saltare. Il gioco me lo ricordo bene, ma ero convinto che fosse l'Intellivision. Per 2006? No, 2006 no, per Intellivision. No, 2006 ci sono dei video su 2006, ma non so a questo punto. È un prototipo che è stato ritrovato recentemente, ma che non è mai stato pubblicato all'epoca. Però già vedi che pensa che ha trovato il prototipo. Sì, sì. Infatti quello che citava prima il buon Davide, esatto, è il prototipo di Pitfall 1 che io possiedo. No! Sì, okay. Ho la cartuccia prototipo di Pitfall 1 dell'Activision. Con un adesivo gigante sopra con scritto che va restituito all'Activision. Esatto, e che arriva direttamente dalla redazione di videogiochi della Jackson. Era il prototipo che avevano inviato, che l'Activision inviò alla redazione di videogiochi in Italia per fare la recensione di Pitfall per ColecoVision. Ce ne sarà una nel mondo e ce n'è una nel mondo, non ce ne sarà. Ce n'è ma una. È tua o è di qualcuno? Io non ho capito. È mia. Ah, ok, quindi non la devi restituire. No, c'è scritto sopra, però c'è un adesivo con scritto sopra che è da restituire. Guarda, io cognome faccio Activision, quindi evidentemente me la devi restituire a me, probabilmente. Ah, vabbè, allora prima la dai a me, poi la do io a lui. Certo. Comunque, io guardavo la versione prototipo, probabilmente, come diceva Carlo, dei puffi per Atari 2006. All'Atari 2006, avendoci queste limitazioni grafiche, alla fine nelle schermate mancava la profondità. Cioè, i giochi sono tutti molto più piatti, se tu vai a vedere, no? Invece, i giochi del television, nella costruzione dello scenario, c'era più prospettiva, no? Perché c'era probabilmente più potenzialità. E questo, secondo me, forse era. Andate a guardare Dracula, per esempio. Dracula era terribile, Magic. Dracula delle Magic forse ha lo stesso effetto wow che aveva Pitfall dell'Atari sull'Intellivision. Sì, sì, tutta la roba Magic, io quando l'ho vista in fiera sbavavo proprio, anche Demon Attack che era una cavolata, però quando l'ho visto ho detto gli sprite colorati, cioè, come è possibile? Tutti i Magic multicolor. È stato un altro covo incredibile di programmatori su 6502 abilissimi, veramente dei campioni. Non mi ricordo se l'ho già detto in un'altra puntata, forse sì, ma dalle ceneri delle Magic, cioè i programmatori delle Magic che fecero quei giochi fantastici su Atari e su Intellivision, nacque il Geos. Il Geos, cioè il Graphics Operating System, che era quello dell'Atari. No, il Geos era sul Commodore 64. No, il Geos non era mica il sito operativo dell'Atari 5000, sì, buonanotte. Ti confondi Atari ST. Dopo, ti confondi. Il Geos nasce su Commodore 64 ed è stato il primo sistema operativo a icone finestre su Commodore 64, su un 8-bit. Sì, per cui praticamente il mouse. Esatto, che faceva 64. Diventare il Commodore 64 quasi un Macintosh. Un Macintosh, io me lo ricordo che era proprio simile Macintosh. La freccetta la muovevo col joystick, quindi. Sì, però potevi anche collegarci il mouse che ti vendevano. Non sapevo neanche che esistesse un mouse io. Sì, della Commodore l'aveva fatto. Se ce l'avrà Carlo, sicuramente ne avrà due o tre o cinque. Sì, ma conoscendo la Commodore, quello della Commodore costava tantissimo perché dentro c'era un computer che spiegava al computer come. Esatto. Guarda che è una cosa fantastica, se guardate Geos adesso è anche quello un capolavoro della tecnica, perché è un sistema operativo a finestre icone con un programma di videoscrittura WYSIWYG che funziona tutto da floppy, con due floppy disk semplicemente, fa anche la swap memory su floppy disk e quindi trasforma un Commodore 64 col drive in un computer praticamente che costava 50 volte il Commodore 64. fa veramente dei miracoli, e fu appunto sviluppato da questi programmatori della Imagic che mangiavano pane 6502 praticamente come sì, codice. Sì, che poi comunque divenne il sistema base operativo dell'Atari 520, giusto? Allora, lì adesso mi fai una domanda che non mi ricordo. So che ci sono sull'Atari fu introdotto il sistema operativo che non mi ricordo se era il Geos o un altro. Aspetta. Sì, perché se scrivi Geos viene fuori, vengono fuori le schermate dell'Atari. Allora, vabbè. Nasce sul 64, poi sull'Apple 2. No. Non parla di no. Atari. E allora no, allora mi sbaglio, dai. Vedi? Infatti mi ricordavo giusto. È qualcosa di successivo. Come si chiamava quello dell'Atari? Atari ST era lo STOS. Hai ragione. Era l'ST OS, sì. Esatto, che poi però diciamo che ci assomiglia molto a Geos. Esatto, ci assomiglia. Sai cosa? C'erano i computer PC dell'Atari che venivano venduti non con Windows, ma con un sistema operativo che ricordava molto. Sì, e che ti dico anche qual è. Atari PC, che non lo trovo adesso, vabbè, dovremmo fare questo guaio delle dirette che non trovo gli appunti. Ma tanto non avrei tagliato comunque, quindi sarebbe stato. Allora va bene, dai, diciamo stiamo che... andando fuori tema. Comunque devo ritrovare i miei appunti. Però sicuramente la Imagic furono quelli programmatori del Geos su Commodore 64, su questo ne sono assolutamente sicuro. Beh, io direi se abbiamo fatto una panoramica un po' di quello che è Pitfall, possiamo fare un accenno così anche solo nostro, insomma, un po' romantico sul 2, perché comunque il 2 chi è che ci ha giocato? Tutti, il 2 è quello che introduce il salto della fede di Indiana Jones, se ve lo ricordate. Sì, sì, sì, che tu salti e non sai dove vai a finire e poi sbuchi fuori, cioè che devi farlo quel salto, se no non vai avanti nel gioco, salti nel vuoto e poi atterri sulla piattaforma dopo qualche secondo che spunta fuori dallo schermo, ma al momento salti nel nulla. Allora il problema di alcuni punti, partiamo dall'inizio. Pitfall 2 parte come Pitfall, cioè nel senso comunque la logica è la stessa, quindi c'hai tutta la prima parte fino a che non cominci ad andare nel sotterraneo, l'acqua sott'acqua e via dicendo, il gioco è praticamente lo stesso. Poi entri nel sottomondo e da lì praticamente è un tutto un esplorare, perché chiaramente se tu non capisci dove andare, dove non andare, qual è la piattaforma dalla quale saltare rispetto alle piattaforme dall'altra parte, poi c'è i palloncini. L'unico vantaggio di Pitfall 2 è che non ti sfracellavi, però in realtà se tu sbagliavi, allora, in Pitfall 2 c'avevi una importantissima differenza rispetto all'1, che non c'era il tempo e quello era, quindi non ti veniva l'ansia, avevi vite infinite. E c'era il checkpoint. Non puoi morire o perdere. Pitfall 2 è esattamente un'avventura esplorativa, esatto, che ti induce a finirla, a cercare di capire come finire questo gioco facendo questa avventura. Quindi anche questa è una cosa innovativa assolutamente, cioè tu non è più un gioco dove devi preoccuparti di cazzo c'ho tre vite, poi se finisco devo ricominciare da capo, oppure c'ho il tempo. Mentre Pitfall 1 era ancora un po' legato a questo concetto dell'arcade, Pitfall 2 se la slega completamente, quindi okay? È il peggior gioco da trasferire su arcade, perché la logica va invertita completamente. Esattamente. Però allo stesso tempo era abbastanza esteso e complesso come macchina, che su un arcade bastava fargli le dovute modifiche e magari ci poteva star bene, no? Mi ricordo solo che, vabbè, a parte le morti, cioè tu potevi sbagliare, cioè nel senso, se tu saltavi dalla piattaforma sbagliata, se non mi sbaglio, se andavi a finire sotto nell'acqua, non so se potevi recuperare poi il personaggio, cioè mi ricordo solo sta cosa. Qui a mia memoria Pitfall 2 è stato, se non il primo, uno dei primi videogiochi che ha indotto tutti a disegnare le mappe per finire questo gioco. Per forza. Perché inizi a cercare di capire come faccio a finirlo, allora ti metti lì con la carta e disegni la tua mappa, perché sennò non finirai mai, no? Per esplorare. Quindi vai avanti, esplori, guardi cosa c'è, metti la cosa, eccetera, disegni la mappa. Cioè, diciamo che... diciamo che era il game design, secondo me funzionava, perché poi alcune cose a intuito le capivi quando erano, cioè quando cioè se era il punto in cui dovevi fare la cosa, roba del genere. E poi sta cosa del checkpoint per me era fenomenale, perché chiaramente poteva succedere che venivi preso dall'anguilla o dalla rana in un determinato punto e lui ti trasportava alla X dove eri arrivato, tra l'altro, nel senso che era la cosa più importante, fino a che poi non arrivi alla fine e salvi poi il personaggio, no? se non mi ricordo, e finisce il gioco, no? Però c'è la prima schermata, io c'ho ancora sto cazzo di dubbio. Sotto alla prima schermata c'è sta lo scorpione, ma lì quando ci si arriva, no. Non è lo scorpione, c'è lo c'era, scorpione c'era qualcosa, aspetta, non me lo ricordo, fammi andare a vedere, perché su 2006? Sì, sempre 2006. Allora, Pitfall 2, Atari 2600, long play, perché ci sta il long play, eccolo qua, infatti. Cioè, nella prima schermata, ecco, ah no, ok, c'è questa specie di lupo. Esatto, c'era una specie di lupo, che non so cosa fosse. Una specie di lupo, che con la coda, in piedi, antropomorfo. Ma non ci arriva lì. Cioè, voi ve lo ricordate sta cosa? Io non me la ricordo. No, non mi ricordo più. Subito il quadro dopo c'è un topo. Ma non è un topo, è lo scorpione quello. Ma no, è un topo. Ma non un topo. Se guardi il quadro 2. Ma cioè, no, due. Quello bianco sotto è uno scorpione, non è un topo. C'ha, vedi che c'ha la. Ah, sì, era, bravo, sì. Era più bello lo scorpione di Pitfall 1, allora. Ma forse è un topo. Perché il topo sta con la coda così? Cioè, quello è ancora uno scorpione. Vabbè, dai, a parte questo discorso, no? Questa parte qua sotto, praticamente, che non so se ci si arriva, cioè, o se ci si è mai arrivato. Quindi mi è sempre rimasto sto dubbio. Quindi, se qualcuno in chat, ma ancora meglio, le persone che magari ci ascolteranno in podcast e vorranno lasciare commenti anche nella pagina Facebook, fatelo, perché io, se vuoi, ti do la soluzione, però dopo potrebbe essere che ti piaccia. Okay. Sì, cioè, perché l'ho visto, adesso dove lo raggiunge. Ah, ok. Ma è subito o è verso la fine? O è alla fine? È proprio alla fine, è alla l'ultimo. Fine. Okay, sì. L'ultimo è arrivare a quello lì, quindi inizia vedi la fine sotto. Inizia e vedi la fine sotto, giusto, me lo ricordavo questo, è vero, hai ragione, me l'hai fatto venire in mente. Cosa da dire, come dicevo prima, è che il... Pitfall 2 vendette proprio perché c'era scritto David Crane. Esatto, sì. Proprio perché tutti si aspettavano il seguito. Questa fu una delle innovazioni che introdusse l'Activision, di cui ti dicevo prima, cioè il fatto di riconoscere l'autorialità, e quindi dall'autorialità, quindi questo poi portava la gente a dire lo prendo per forza, perché l'ha fatto lui ed è il seguito di quello che è stato il grandissimo successo. E come dicevo prima, che è sfuggito forse, Pitfall 2 è stato uno di quei giochi che ha cominciato a essere, diciamo, tra virgolette, espanso all'interno della cartuccia, aggiungendo un chip che lo potenziava. Si dicono che sia stato il primo in assoluto, dicono. Che le dava la possibilità di fare musica a quattro voci, che non aveva il 2006, più degli enhancement grafici. Però sì, quegli accordi e la batteria, c'era anche sotto... c'era anche la ritmica, insomma quattro voci più ulteriori elementi grafici, perché Pitfall 2 c'era quella specie di effetto tramonto dietro, che insomma c'erano tanti elementi grafici carucci, che grazie a sto chip, che poi dopo, da quello che ho letto, è stato utilizzato solo su questo gioco, perché poi ci fu il crash poco dopo sì. E non si è potuto più sfruttare anche se era un'intensa. Ma diciamo che non furono più fatti giochi per il, perché si passò al Commodore 64. Anche la stessa Activision passò a fare giochi su Commodore 64. Pure comprensibile. Comunque, mentre che come dico spesso, il Crash non fu il Crash del videogioco, fu il Crash dell'Atari alla fine. Quello che noi nel 84 chiamavamo Crash videogioco. Però Atari significava videogioco. In quell'epoca sì, però non era il mercato del videogioco. Il mercato del videogioco, anzi, riprese e continuò in maniera ancora più florida di prima, capisci? Quindi, comunque, mentre che in chat Elio si fa le domande e si risponde da solo, Roberto dice che il miglior platform dell'epoca era Rock'n'Roll, che sinceramente io non ho mai sentito nominare. Era un arcade Rock'n'Roll, che praticamente era un cavernicolo, lanciava le liane e ti agganciavi al piano di sopra e poi salivi. Conosciuto, ma non era facile da giocare. Era bello, ma non era per niente facile da giocare. Per quello che a me non mi aveva preso, perché sai, quando tu metti dentro 200 lire e poi dopo 3 secondi è finita, ti scoraggia un po'. Poi va bene, ero io impedito, probabilmente. Però. Cioè, al 9000 che dice che bella la grafica dell'epoca, perché andava un po' interpretata, ma è uno scorpione o un topo? uno scoiattolo. In effetti è così. Ragazzi, erano 8 pixel quello scorpione. Simone Guidi, che è entrato, lo salutiamo, ci dice che in realtà, cioè no, che lui dice che David Crane era un po' lo Stan Lee dell'Activision all'epoca, insomma. Sì, vabbè, in effetti era un po' la superstar, sì, dai. Cioè. Sì, esatto, sì. Era la superstar, però devo dire che al di là del fatto che lui magari era iper tecnicamente super cazzuto, però magari era meno creativo, però devo dire che ci ha comunque lasciato Pitfall 2, che ragazzi rimane a oggi il gioco di quell'epoca. No, però di cioè, parlando mio personale, insomma, il gioco di quell'epoca che io ricordo proprio con più piacere, insomma, proprio perché è proprio il gioco a cui ho giocato tantissimo, l'ho finito, rifinito e via dicendo, insomma. Quindi ecco, questa è poi, diciamo che noi tante volte prendiamo spunto anche magari da una cosa che ci ha colpito direttamente, insomma, poi dopo magari cerchiamo di estendere e raccontare un po' la storia tramite Carlo, che sicuramente ne sa, insomma, no? Giusto? Direi di sì, direi. Vabbè, qualche notizia, diciamo, qualche riflessione molto, importante, non molto conosciuta, l'ho data in questa puntata, no? Direi proprio di sì. Io lo sapete che propongo propongo un'idea per la prossima puntata. Ossia, anche se un po' ne abbiamo parlato, cioè secondo me ne abbiamo parlato, però forse non in questa nuova veste di archeologia videoludica. Partire da Commodore 64 e grafica vettoriale, cioè proprio una cosa, cioè nel senso, la storia con 64, con la grafica vettoriale non è che c'entri molto. Beh, c'è stava qualcosa, però ci ha provato, i primi giochi su 64, quelli semi 3D. C'è da fare un bel discorso lungo e complicato anche. E vabbè, allora facciamo una puntata lunga e complicata, scusa. Esatto, insomma, è qualcosa di abbastanza complesso. Diciamo che si parla di simulazione di grafica vettoriale, esatto. Perché ovviamente era pixel, quindi erano linee che sembravano molto seghettate, ma comunque si voleva giocare a quel gioco che era tanto famoso. La sala giochi, che era solo vettoriale, si cercava di portare in qualche modo, però con un po' di tristezza vedendololo, ecco. Anche perché non c'era potenzialità per muovere i vettori come li muoveva un arcade vettoriale. Ma infatti molto spesso erano anche semistatiche, no? Cioè si muovevano a 5 frame al secondo, cose del genere. Io ce l'ho delle cose. Vabbè, dai, allora facciamo così. Mo me la studio un attimo e vi mando poi dei link e dei suggerimenti e parliamo dei primi giochi in grafica 3D degli anni 80, cioè senza andare indietro nel tempo di cui abbiamo parlato, insomma. Quindi magari partendo anche i primi giochi 3D iniziano negli anni 70, comunque appunto, però siccome che degli anni 70 già l'abbiamo affrontati, cioè nel senso, andiamo, evolviamo un pochino, insomma. Io avevo 5 anni, non mi ricordo niente. Andiamo un po' avanti, anche perché poi dopo un giorno vorrei anche parlare invece dei giochi in grafica 3D vettoriale, no, tipo quelli là dell'Amiga 500, tipo Hunter, sai, sta roba qua, insomma, che erano forti, perché in realtà costruivano sti mondi, poi ovviamente dei limiti grafici incredibili, però insomma era figo. Il 3D è sempre stato un po' la grande rivoluzione del videogame, soprattutto in un periodo in cui era affascinante vederlo, insomma, no? quando non si poteva fare, insomma, quando non si poteva fare, non... esatto, insomma. Esatto. Poi noi ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto con Gianluca Santilio l'excursus sulla storia del videogioco di calcio, no? Quando abbiamo parlato di iPlay 3D Soccer, che era ovviamente questo grande esperimento che facevamo in Italia, ma tra l'altro perché era di Simulmondo, il sì. primo gioco grafico pseudo 3D di un gioco di calcio, tra l'altro con la visuale in terza persona del personaggio, vabbè, una cosa ingiocabile, però l'abbiamo atteso tanto, perché insomma era figo, perché ecco, alcuni momenti, alcuni prototipi, alcune sperimentazioni, cose che magari dal punto di vista ludico devono lasciare un po', però poi alla fine... Però Carlo mi dice che Elite su Commodore 64 non era in grafica vettoriale, quindi insomma mi stai dicendo questo. Era una simulazione 3D, sì, probabilmente, però chiariamo, il problema è che spesso con grafica vettoriale si intendono due cose diverse e si confondono queste due cose. Sì. Cioè, non so se volete che io parlo di per me vettoriale è asteroide, ecco, per dirti, ecco, vedi, e non c'entra niente con quello dei carri armati. Tu stai parlando della tecnica vettoriale di un monitor che visualizza la grafica a vettori, esatto. Mentre Simone sta parlando di giochi che utilizzano i vettori per disegnare dei mondi tridimensionali. Esattamente, quindi sono due bravo. Cose completamente diverse. Esattamente, che però si chiamano allo stesso modo. È da qui che nasce tutto il casino, e di quando dici vettoriale uno non capisce a cosa si sta riferendo e poi si fa confusione spesso e volentieri tra le due cose, perché in realtà stai definendo due cose completamente diverse che non c'entrano una con l'altra, lo stesso nome, esatto, okay. Esatto. E questo crea una confusione, okay. Sì, tra l'altro, esatto. Roberto dice Stunt Car Racer, ragazzi, cioè, ma che gioco era quello? Cioè... quelli erano fantastici, ma infatti si tratta di giochi vettoriali nel senso di ricostruzione vettoriale di un mondo tridimensionale poi ricreata sullo schermo del computer, quindi proprio della simulazione del 3D, come dicevi prima tu, Simone, ok? Quindi la ricostruzione. Invece i giochi vettoriali che intendeva Davide sono giochi bidimensionali, non hanno una tridimensionalità. No, ok, perché c'è, cioè, nel senso, quando parlavamo del Vectrex, no? Cioè quella è comunque, no? Nel senso, magari anche in senso bidimensionale, quella era grafica vettoriale, giusto? Sbaglio? Dico sì, sì. Okay. No. Era grafica vettoriale, ma nel senso di tecnica di visualizzazione. Di tecnica di visualizzazione, esatto, sì, ok. Mentre che invece quello che dicevo io era, vabbè, ok, perfetto. Vabbè, dai, ci arriviamo, facciamo una bella puntata su quando, insomma, abbiamo visto i primi esempi, no? Ma magari partiamo proprio da Elite, che insomma non è mai male, così è contento pure Alex, che insomma dice, vabbè, ma ne abbiamo parlato soltanto una volta 7-8 anni fa. Ma riparliamone un pochino, magari partiamo da là, facciamo un piccolo excursus, se vi va, questa è una proposta che insomma, e secondo me anche in archeologia informatica dovremmo iniziare a farla sta benedetta puntata sull'origine della grafica tridimensionale nel computer. Insomma, Alex che... ha fatto un motore, un engine 3D, sì, mi ricordo, sì, di grafica, però siccome che ce lo siamo sempre promesso e poi non l'abbiamo mai realizzato, insomma, diciamo che dai, proviamo a far andare questo indirizzo per le prossime settimane, magari non live, perché insomma sapete che in realtà l'archeologia videoludica e l'archeologia informatica difficilmente vanno live, lo fanno in questo periodo perché, come abbiamo spiegato, insomma, è un nostro contributo, un nostro modo di stare un po' tutti in compagnia. Vedere poi la partecipazione significa che vuol dire poi che alla fine non lo stiamo facendo in vano, questa è un po' la cosa più importante, insomma. Va bene, allora dai, io direi che ci siamo, no? Cioè, dobbiamo aggiungere altro? Vogliamo di cose che non abbiamo detto? No, direi che è stato detto più di quanto mi immaginassi. Sì, no. Siamo okay, arrivati. Ci siamo pronti. Abbiamo trattato argomenti che non erano diciamo, di competenza puntata. È bello, siamo andati un po' più a braccio stavolta, le prossime volte torneremo ad essere un po' più stretti e concisi e magari coerenti con quello che ovviamente ci siamo prefissati. Allora, io ringrazio Davide Gatti, Survival Hacking, podcast e canale YouTube. Ringrazio anche voi e intanto vi do una buona serata a tutti. Così sei rimasto? No, perché pensavo che dovevi venire, invece no. No, buona serata, hai già detto tutto tu. No, va bene, okay. Ringrazio e saluto il nostro magister qui, insomma, il direttore editoriale Carlo Sant'Agostino. Ciao, ciao a tutti, allora e buonanotte e ritorno in famiglia, dai. E ritorno in famiglia. E ricordiamo che lunedì torna anche il nostro canale YouTube di archeologia informatica con cosa? Le live di Francesco Sblendorio. Ok, quindi la spiegazione del Basic del Conno 64 3.5, esatto, cioè nel senso un po' di retroprogrammazione. Così apriamo questa nuova rubrica che era tanto che l'avevamo pubblicizzata e poi in realtà non era ancora partita. Insomma, detto questo, io vi ringrazio a tutti. Ci vediamo prestissimo. Ci vediamo per chi segue le nostre live domani mattina alle 11 con Il vino lo porto io di Alex Raccuglia. Domani alle 3 ci sarà una piccola live dedicata ovviamente al 25 aprile. E poi verso le 4:30-5 ci sarà poi anche OGM Ottimisti. Oltranzisti gastricamente maleducati, sapete, il nostro programma irriverente è un po' cafone e ci vediamo prestissimo, insomma, con tutto il resto. Da domani questa puntata sarà comunque disponibile nel feed di archeologia videoludica e la spammeremo a tutti quanti i gruppi. Grazie a tutti e soprattutto buonanotte. Buonanotte. Notte. Notte a tutti. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.